investimenti in un'epoca europea, di catastrofi di tradizione europea. Furor Foden! Furor Foden! Furor Foden! Que me está transformando. ¡Furor! ¡Vale! La rabia es un toro y me ocupa.